Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione che si occupa di una questione molto antica, ma ancora troppo poco dibattuta. Poco presente nei media, nei social e nella società reale. La famigerata questione animale. Forse è meglio chiarire che la questione animale consiste in quell'insieme di problemi di natura etica e filosofica concernenti gli animali e il corretto atteggiamento umano nei loro confronti. Ma se dal punto di vista teorico si viaggia molto alto e della questione si occupano giuristi, filosofi e scienziati, dal punto di vista concreto in realtà ciascuno di noi ha a che fare con la questione animale in tutte le scelte quotidiane. Cosa mettere nel piatto, quali prodotti acquistare, cosmetici per esempio, ma anche detersivi, se sceglierli testati sugli animali o non testati sugli animali, se avere un compagno non umano in casa, quindi un cane, un gatto, un acquario, una gabbia di canarini e come sceglierli questi animali, se sono animali recuperati oppure allevati, se andare a prendere il cane in un canile oppure in un allevamento, come relazionarsi agli animali selvatici, all'ambiente, se andare o non andare a caccia, agli zoo, ai circhi e così via. Insomma, ciascuno di noi, nel suo piccolo, in mille frangenti e spesso in modo incosciente, prende una posizione rispetto alla questione animale. E noi, come trasmissione, cerchiamo di portarvi la voce di chi si occupa della questione animale, siano i giornali, gli attivisti, i movimenti per la liberazione animale, interrogando le mille facce con cui la questione animale si manifesta attorno a noi. Per fare un esempio di come la questione animale sia strettamente ancorata alla cronaca, partiamo dalla questione del terremoto del 24 agosto che ha devastato tante abitazioni nel centro Italia, causando la morte di un numero di vittime umane molto consistente e di un numero imprecisato di vittime non umane. Infatti, gli animali vittime del terremoto non sono stati censiti. Per noi le cose dovrebbero andare un po' diversamente, perché ogni vita ha lo stesso valore. Per questo siamo al telefono con Gianluca Felicetti, presidente della LAV, Lega Antivivisezione, associazione in prima linea nelle zone del sisma, dove è corsa per curare, salvare e recuperare le vittime non umane del terremoto, gli animali, siano essi animali di famiglia o randagi. Nella pagina Facebook della LAV e in quella di Gianluca Felicetti le storie sono tantissime. Magari Gianluca, raccontacene qualcuna. Io sono stata particolarmente colpita dal vostro slogan "Non lasciamo solo nessuno". Sì, tra le prime, devo dire veramente le più toccanti, la disponibilità a dare stalli o adozioni a cani che sono arrivate proprio da due persone dell'Aquila. Quindi due persone che 7 anni fa hanno subito un terremoto e che 7 anni dopo hanno dato tra le primissime la disponibilità a dare una casa anche solo provvisoria a cani in difficoltà. Poi l'aumento delle, devo dire, telefonate da parte delle stesse vittime del terremoto, dei loro familiari che con persone a loro care che ancora erano sotto le macerie, è il caso di una persona pur piangendo per la sua cugina che era sotto le macerie e sperando vicino ai vigili del fuoco di poterla salvare, ci ha chiamati per salvare il cane che era disperso, che non sapeva più dove fosse finito. E sono due delle storie. Questo a riprova che al di là di chi, ma devo dire in maniera per me davvero esigua, si è messo anche sui social a distinguere, ma ancora ci sono le persone sotto le macerie pensate agli animali, non solo invece in gran parte ha apprezzato che noi abbiamo portato anche generi per le persone, insomma in questo senso l'attività per i diritti degli animali è davvero per tutti i viventi, dall'altra hanno compreso che in questa prima fase emergenziale gli animali delle famiglie venivano recuperati grazie alle loro famiglie, su richiesta delle loro famiglie, e questo è un motivo di, come dire, di grande comunione, di grande unione tra umani ed altri animali. Abbiamo visto alcune foto toccanti, quella per esempio del cane accanto alla bara, che rendono l'idea di come appunto gli animali non umani facciano parte delle nostre famiglie e noi delle loro famiglie. Che cosa ci insegna questo al di là della specie animale coinvolta? Beh, che loro non fanno veramente differenza di specie, quindi quel cocker che continuava a grattare la bara della sua famiglia, del componente della sua famiglia, e che nonostante gli altri familiari così gli dessero conforto, era lì e tentava di aprire, di grattare, di trovare un segno di rispondenza in quella bara, e a riprova che loro non fanno differenze, che invece ancora noi, una parte di noi ancora la fa, e in questo il dolore è lo stesso, il dolore non fa distinzioni. Una parola forse bisogna spenderla anche per i cani che hanno portato aiuto, che hanno fatto ricerca, ne avete intercettati? Sì, in particolare dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco. Ovviamente si tratta di cani che sono stati abituati a questo tipo di interventi. Come forse sa chi ci ascolta, uno di questi è morto durante gli interventi, i controlli, e giustamente, lo voglio riportare, c'è chi ha lanciato questa riflessione. Quei cani che magari vengono messi da parte, non vengono fatti entrare ancora in diversi luoghi pubblici, oppure poi vengono osannati nel momento in cui, grazie al loro rifiuto, trovano delle persone sotto le macerie. Ecco, qualche interrogativo in più rispetto alla distinzione fra cani cosiddetti utili e cani che non vengono considerati utili deve essere fatta, perché di cani come di esseri umani ce n'è uno solo, c'è solo un tipo. E in questi momenti di bisogno o di rispetto non possono essere fatte distinzioni. Un'ultima cosa, di cosa avete bisogno? Cosa chiede la LAV ai cittadini? C'è qualcosa che possiamo fare per aiutare tutti, ovviamente, i viventi, ma in particolare chiedo a te riguardo agli altri animali. Allora, la LAV ha stretto un accordo di collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, che ci ha permesso e ci permetterà ancora nei prossimi giorni settimane di compiere degli interventi mirati e il più possibile nel caos generale il più possibile qualificati. A differenza di quelli umani, per i quali la protezione civile ha dato lo stop, materiali, in particolare cibo, di cui c'è e ci sarà bisogno anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. La LAV rimarrà con un progetto a medio termine anche durante i mesi freddi, durante la prossima primavera. Le persone che vogliono darci una mano anche a distanza possono andare sulla pagina Facebook della LAV, della sede nazionale, contattare la sede LAV più vicina, oppure direttamente sul sito lav.it. Tears or something. Restiamo sul tema del terremoto. Domenica 28 agosto a Torino, in piazza San Carlo, si è svolta una mega spaghettata, una amatriciana solidale a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia. Un piatto di pasta all'amatriciana per sostenere i terremotati, con versione vegana, senza guanciale. A Torino centinaia di persone hanno affollato all'ora di pranzo le tende della protezione civile allestite in piazza San Carlo, che è il salotto della città, e hanno mangiato gli spaghetti secondo la tradizionale ricetta originaria del paese di Amatrice, uno dei più colpiti dal sisma. Le cucine da campo erano le stesse che avevano raggiunto L'Aquila nel 2009. Sono stati 800 i coperti serviti in contemporanea da 80 volontari operativi. L'offerta era libera e si sono viste molte persone lasciare banconote da 50 euro. E se la sindaca Appendino, grazie alla matriciana disponibile anche in versione vegan, ha dato un altro segnale della sua attenzione verso le sensibilità animaliste e ambientaliste, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, prontamente oggi nella rubrica di cucina Il Pasto Gentile, vi consegnerà la ricetta della matriciana cruelty free di Restiamo Animali, che vi invitiamo a cucinare per i vostri amici, invitandoli a cena, magari raccogliendo dei fondi da mandare alle associazioni animaliste che si occupano degli animali vittime del terremoto. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi è dedicata alla vita di tutti. Gli ingredienti per 4 persone, per la amatriciana Libera Tutti, sono 400 g di spaghetti, 150 g di seitan, qualche goccia di liquid smoke, 500 g di pomodori tipo San Marzano, 2 cucchiai di lievito alimentare a scaglie, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, un peperoncino. Tagliate il seitan a pezzetti piccoli. Emulsionate qualche goccia di liquid smoke con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Condite il seitan con questa emulsione e lasciatelo marinare una mezz'ora. Nel frattempo scottate e pelate i pomodori, privateli dei semi e tagliateli a pezzetti. Fate rosolare il seitan e tutta la marinatura in una padella. Fate cuocere fino a quando sarà ben croccante. Aggiungete i pomodori ed il peperoncino, che toglierete a fine cottura. Aggiustate di sale e fate cuocere a fuoco molto lento, fino a quando la salsa avrà raggiunto la densità desiderata. Lessate gli spaghetti e scolateli bene al dente. Saltate in padella con la salsa, aggiungendo via via il lievito alimentare a scaglie. Stiamo nell'attualità parlando di una campagna che ci sembra importante. Si tratta della campagna per la riduzione delle ore di viaggio degli animali. Infatti nel mondo oltre 1 miliardo di animali ogni anno soffrono affrontando estenuanti viaggi di lunga distanza. 2 milioni sono solo quelli che vengono portati vivi fuori dall'Europa e i viaggi durano anche giorni, spesso in camion sovraffollati o inadeguati o su gigantesche navi cargo senza cibo e acqua a sufficienza, con temperature sotto lo zero o con il caldo torrido. Alcuni non sopravvivono al viaggio e di loro nessuno ci darà mai notizia. La destinazione allevamenti intensivi o macelli. La notizia risale a lunedì 29 agosto, data in cui si celebra in oltre 30 paesi del mondo la giornata mondiale contro il trasporto degli animali, che quest'anno ha visto celebrati più di 70 eventi. Il 29 agosto, infatti, è il 20° anniversario dell'incidente che causò la morte nel 1996 di 70 1000 pecore che bruciarono vive in un incendio a bordo di una nave che le trasportava dall'Australia alla Giordania. Già nel 2011-2012 si era tenuta in Europa la campagna 8 Hours, 8 ore, lanciata da Animals Angels con il sostegno di un deputato europeo danese che aveva raggiunto in pochi mesi più di 1 milione di firme di cittadini europei e il sostegno di 126 membri del Parlamento europeo. Purtroppo le 8 ore di viaggio vennero approvate, ma solo per gli animali trasportati all'interno dell'Unione Europea, non per quelli che vengono importati o esportati e che possono viaggiare per un tempo illimitato. Secondo Compassion in World Farming, un'agenzia che si occupa del benessere animale all'interno del sistema zootecnico, nessun trasporto a lunga distanza può rispettare il benessere degli animali. Per questo gli attivisti chiedono che vengano aboliti i lunghi trasporti e che sia fissato un limite di 8 ore. Compassion in World Farming Italia ha manifestato il 29 agosto nelle piazze della città di Ancona e grazie ad una mostra fotografica e un'installazione ha informato i cittadini sulle condizioni del trasporto degli animali a lunga distanza, raccogliendo anche le firme per la petizione #StopTheTrucks, tutto attaccato, che chiede la fine dei trasporti a lunga distanza. Lo slogan della campagna è: gli animali non sono merce, sono esseri viventi e senzienti. Da parte nostra, se lo slogan è autentico, gli animali non dovrebbero viaggiare neanche 8 ore o meno di 8 ore, in quanto appunto se sono viventi e senzienti non dovrebbero stare dentro la filiera zootecnica. La stessa filiera zootecnica non dovrebbe esistere. Durante l'estate, girovagando in rete senza meta e con più tempo a disposizione, abbiamo scoperto che in Italia oggi esiste una nuova pratica sportiva, il cosiddetto working cow horse, che purtroppo si sta affermando come sport equestre riconosciuto addirittura dal CONI. Abbiamo trovato in rete diversi video che mostrano questa disciplina, che consiste in un cavallo addestrato a controllare i movimenti di un vitello. Il cavallo, cavalcato da un cavaliere, deve saper dimostrare il suo grado di cow sense, in pratica la sua abilità nel lavoro col bestiame, senza bisogno di eccessivo intervento del cavaliere con redini e speroni. Cosa c'entri questo sport un po' texano con noi non si riesce proprio a capire, e ce lo spieghiamo solo come la solita operazione di colonizzazione culturale da parte degli Stati Uniti e dei loro divertimenti un po' sadici che continuano ad affermarsi nel mondo. Su questo tema la nostra collaboratrice e amica Zia Abelarda ha inviato un commento che allarga lo sguardo da questa pratica alla condizione animale nel suo complesso. Cosa ne pensi del working cow praticato per divertimento, mi domandi? Io non so neanche cosa sia il working cow, però trattandosi, mi par di capire, di bovini, di lavoro, di umani che da tutto ciò traggono divertimento, presagisco che si tratti di qualche cosa che non possa strapparmi l'applauso. Guardo un po' in rete, definizioni, regolamenti, filmati, e no, proprio non me lo strappa l'applauso, anzi. Un umano in sella a un cavallo, dentro un'arena, e un vitello, costretto dal cavallo, a sua volta costretto dall'umano. Ma l'umano, chi lo costringe? Provo una pena così profonda per quel vitello e per quel cavallo, che come me proveranno stanchezza, fame, sete, sonno, ma anche paura, terrore, gioia, desiderio. Come me, penso, ameranno la libertà. Mi risuona dentro un haiku del 1600, del poeta giapponese Matsu Basho. Quanta pietà, sotto l'elmo una cavalletta. Pare che Basso abbia scritto questo haiku in riferimento ad altro, certo, ma poco importa. Per me ora la pietà, la pena, è per quella cavalletta, alla quale è impedito il salto, è impedita l'essenza stessa del suo esistere, costretta, imprigionata, una cavalletta che non può saltare. Che angoscia, che pena per quella cavalletta. E per tutti gli animali, imprigionati sotto i nostri maledetti elmi, che prendono di volta in volta forma di gabbie, di stabulari, di sedie di contenzione, di vasche, di some, di pungoli elettrici, di corde, di catene, di paraocchie, di recinti, di cavezze, di fruste, di redini e di morsi, di speroni, lì, sotto, costretti, obbligati, piagati e piegati, umiliati, galline, uccelli, maiali, cani, conigli, topi, scimmie, delfini, somari, vacche, vitelli, agnelli e capre, pecore, cavalli. In nome dello sviluppo, in nome della scienza, della tradizione, in nome dell'abitudine, in nome del divertimento, imprigioniamo, sottomettiamo, domiamo e dominiamo, con indifferenza, con noncuranza, con tracotanza, con dileggio. E ci compiacciamo per le nostre prodezze. Ma noi siamo intelligenti, noi siamo furbi, noi siamo forti, noi siamo i più forti, fieri, orgogliosi della nostra prova di forza. Ma che bravi! I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently. C'è spazio anche per una bella notizia che stavolta ci arriva dagli Stati Uniti e più precisamente dalle isole Hawaii. Facendo ricorso all'Antiquities Act, una legge del 1906 voluta da Theodore Roosevelt, il presidente a fine mandato Barack Obama ha dato vita alle Hawaii al parco marino protetto più vasto del mondo. Due volte la superficie del Texas, per oltre 500.000 di miglia quadrate, nelle acque remote del Pacifico, la nuova oasi sarà un paradiso di biodiversità, un santuario per specie in pericolo, tra cui la balenottera azzurra, le tartarughe marine, l'albatros dalla coda corta e le ultime foche monache delle Hawaii. L'oasi contiene alcune delle barriere coralline più in salute del globo e le sue montagne e isole sommerse ospitano una fauna variegata e ricca di oltre 7.000 specie, tra cui i più antichi animali viventi della terra, coralli neri che hanno creato lì il loro habitat 4.000 anni fa. Il parco, che ha un nome impronunciabile che sembra qualcosa come Papaana Umok Akea, approssimativamente vuol dire la matrice della creazione, quadruplica un'oasi marina che già esisteva e che fu creata nel 2006 da George W. Bush. È anche uno straordinario omaggio alle culture ancestrali degli indigeni hawaiani, i cui spiriti degli antenati dicono aleggiano su quelle acque. È ironico il fatto che proprio il paese in testa a tutte le classifiche di consumo di risorse naturali e di distruzione di vite animali decida poi di avere la riserva naturale più imponente. O forse non è strano, è una sorta di espiazione per cercare di riequilibrare la propria immagine, ma anche il proprio karma. Forse un ripensamento degli Stati Uniti riguardante i propri consumi e stili di vita e la propria alimentazione sarebbe più utile al pianeta e alla biodiversità, ma evidentemente i tempi non sono ancora maturi. Proposta di libri per l'estate, ogni settimana abbiamo recensito un libro da portare in vacanza o da leggere in città. Questa settimana la recensione spetta al nostro Lorenzo Guadagnucci e avrà per oggetto un testo che ridimensiona la nostra idea di superiorità della specie umana. Nei giorni scorsi a Città del Capo, al Congresso internazionale di geologia, fra gli studiosi è emersa con forza la necessità di proclamare che stiamo vivendo una nuova era, denominata Antropocene. All'origine di questo passaggio ci sono i cambiamenti impressi agli ecosistemi sul pianeta Terra dalla specie umana, cambiamenti ritenuti ormai irreversibili. Si tratta di fattori come la dispersione nell'atmosfera di elementi radioattivi a causa delle esplosioni nucleari o della diffusione della plastica nei mari e della sua assimilazione addirittura nelle rocce. In più c'è la modifica del clima. Insomma, un insieme di fattori che, secondo molti scienziati, spingono a ritenere che sia arrivato il momento di decretare la fine dell'Olocene, cioè l'era geologica iniziata circa 12.000 anni fa. Va da sé che questa presa d'atto è anche un grido d'allarme. E non a caso, quando si affronta il tema della datazione, cioè del periodo dal quale far partire la nuova era antropocene, prende corpo l'ipotesi di scegliere il 1945 e in particolare il 6 agosto di quell'anno, quando la prima bomba atomica fu sganciata sulla città giapponese di Hiroshima. È ovviamente una data simbolica per esprimere alla massima potenza una caratteristica della specie Homo sapiens, che è all'origine di questo passaggio dall'Olocene all'Antropocene, ossia la sua enorme carica distruttiva, rivolta sia all'interno della propria specie, sia verso gli altri animali e l'insieme degli ecosistemi. L'approdo all'Antropocene, e questa è la conseguenza logica del ragionamento, segna l'inizio della fine della vita umana sulla Terra, perché a meno di radicali inversioni di tendenza, la specie Homo sapiens è destinata ad assistere alla propria autodistruzione, come sostengono peraltro da tempo molti studiosi, che siano antropologi, fisici, geologi. Questa lunga premessa è utile come chiave di lettura per affrontare un libro che tratta in particolare dei fraintendimenti dell'evoluzione umana. L'ha scritto un brillante divulgatore scientifico, Henry Gee, e si intitola La specie imprevista. Gee prende di mira la diffusa idea che la storia dell'evoluzione sia un percorso grossomodo lineare, una progressione che di miglioramento in miglioramento conduce alla specie umana e in particolare all'Homo sapiens, come se ci fosse nell'evoluzione una finalità positiva. Citiamo una frase di G. Non c'è niente di speciale nell'essere umani, almeno non più di quanto ve ne sia nell'essere un porcellino d'India o un geranio. L'evoluzione dunque non è quel che molti di noi hanno in mente, ossia un processo di affinamento e di arricchimento, bensì un percorso pieno di regressione e di perdite e soprattutto dominato dal caso. E questo è il senso, spiega G, della lezione di Darwin, una lezione che può essere interpretata, come G in definitiva suggerisce, in chiave non antropocentrica. Gli studi più recenti hanno dimostrato come la specie Homo sapiens abbia convissuto per periodi lunghissimi con altre specie umane, al punto che appare eccezionale, ragionando sull'arco della storia umana sul pianeta, la condizione attuale, con un'unica specie rimasta. Una conseguenza del discorso sviluppato da G è che Homo sapiens non è da considerare né la specie in qualche modo migliore, né la più evoluta. È semplicemente quella che si è affermata per una serie casuale e irripetibile di fatti e di mutazioni. Se riavvolgessimo il nastro della storia, non avremmo con ogni probabilità lo stesso risultato. Forse non si affermerebbe Homo sapiens, bensì uno dei suoi tanti cugini che hanno abitato il pianeta Terra. O forse, ancora, avremmo la convivenza di più specie umane. Se però i geologi hanno ragione sulla irreversibilità dei cambiamenti apportati dall'uomo agli ecosistemi, occorre d'ora in avanti sperare in una rottura della distruttiva dinamica che ha portato all'antropocene. L'uomo dovrebbe finalmente imparare a rapportarsi da pari a pari con le altre specie e sentirsi ospite e non dominatore del pianeta. Certamente oggi è difficile immaginare un cambiamento del genere, ma il libro di G insegna che nella misteriosa vicenda dell'evoluzione umana niente è davvero impossibile. Henry G., La specie imprevista, Fraintendimenti sull'evoluzione umana, Il Mulino Editore, 302 pagine, 19 euro. Per questa puntata è tutto, concludiamo come sempre con i nomi delle persone che hanno dato un contributo e che sono questa volta Gianluca Felicetti, Lorenzo Guadagnucci, Zia Abelarda, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e la conduttrice solitaria Camilla Lattanzi. La prossima puntata di Restiamo Animali tornerà tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.